Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sono le 21 passate da quasi un minuto, 21 e 55 secondi in questo preciso istante. Oggi è giovedì storico per qualcuno che è venuto dalla Svizzera. È giovedì 14 giugno 2011. Buonasera da Agostino Spolaore e buonasera anche da Maurizio. Sì, buonasera a tutti. Oggi anche la presa della Bastiglia. Anche la presa del Cattolo, non lo sapevo. Non ci pensavo. Allora, questa è Blu Radio Veneto, dicevo, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo anche il nostro sito www.bluradioveneto.it. Poi, per quanto riguarda la pagina di Facebook, vi ricordo semplicemente Blu Radio Veneto, oppure la pagina dedicata a interamente o quasi insomma al rock, cioè Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, al quale mandiamo un caro saluto, che vi ricordo verrà subito dopo di noi. Quindi, certo, questa sera con la sua classifica, la sua musica rock, non perdetela, perché ogni sera è veramente qualcosa di, ogni puntata meglio, è veramente qualcosa di eccezionale. Allora, cosa si fa? Prima di tutto, beh, ricordiamo anche i numeri telefonici, perché mi sembra doveroso farlo. Allora, per quanto riguarda quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri sms da mandare a questa splendida ragazza che ci arriva dal Canton Ticino è il 346 23 20 033. Allora, perché questa euforia? Perché io sono particolarmente contento, fiero e anche orgoglioso di avere qui una cantante che per la prima volta mette piede in una radio italiana e viene dalla Svizzera, una bellissima ragazza che potete vedere tramite lo streaming video, perché siamo anche in streaming video, e si chiama Reidana. Ciao Reidana. Ciao Agostino, ciao Maurizio e buonasera a tutti i radioascoltatori. Come ciao, stai Reidana? Bene, molto agitata. No, perché sei stanca dal viaggio, per quello? Sì, sì, per quello, solo per quello. Boh, faccio una premessa, la prima volta che faccio un'intervista così lunga è bella. È in Italia. Corposa. È in Italia. Quindi... Giustamente Michele dice è in Italia. È in Italia. E abbiamo anche Michele Fiscalini, che cos'è? Un accompagnatore, il manager. Un po' un parolone il manager. Compagno e manager. Ecco. Allora, benvenuta a Blu Radio Veneto. Grazie. Ovviamente. È un piacere essere qui. E grazie di aver accettato l'invito. E adesso noi vogliamo sapere chi è Reidana. Reidana è una ragazza semplice. Che ama la musica e che la musica appunto l'ha sempre aiutata e niente, sono qui a Radio Veneto per presentare il mio album Di Nuovo nel Sole. E una cosa molto interessante che ho letto nella tua biografia, che è questa: tanto tu sei autodidatta, cioè ti sei costruita musicalmente da sola, con forza, con volontà, e tu hai suonato in cover band, cioè hai suonato dei pezzi classici. Per esempio il blues di John Mayer, tanto per dire, sei avvicinata. Ho fatto più Elvis Presley. Ti sei avvicinata ai classici americani e inglesi. Sì. Poi una cosa, giustamente, che hai scritto nella tua autobiografia, che è questa: le composizioni che sì, ho suonato tanti classici, però io voglio fare le mie composizioni, voglio andare avanti con le mie composizioni. Questa è una dichiarazione di intenti decisamente importante, positiva secondo me. Poi io appunto ho anche iniziato che mi veniva proprio solo di fare cose mie. Poi è stata una scelta anche per crescere sia musicalmente che personalmente, di imparare anche pezzi classici, comunque anche dei generi, perché comunque è un arricchimento mio. Tuo. Quindi ogni cosa è una ricchezza. Un bagaglio di esperienze che si ingrossa chiaramente. Sì. E poi sei approdata giustamente alle cose tue, è una cosa importante, fondamentale. Cantautorato sì, però hai tante esperienze prima del cantautorato. Sì, appunto suonato in una cover band, facciamo Elvis Presley, ho imparato un po' cos'è il giro blues. E poi ho fatto anche con dei coetanei nell'età adolescenziale, tipo cover band di Uriah Heep. Che bello, la cover band di Uriah Heep. Io ho una certa età. Michele è più giovane di me sicuramente, però Uriah Heep, Michele, dalle vostre parti sono molto amati Uriah Heep. Sì, in Svizzera sono molto, molto ascoltati e amati. Sì. anche di Purple. Anche di Purple, sì. Sì. Uriah è uno delle icone. Il batterista viene spesso a suonare. Sì, il batterista sì. Esattamente, le icone. Cioè, Uriah Heep, sì. Una ragazza che suonava anche pezzi di Uriah Heep, non è mica semplice. L'ho scritto anche nella nostra recensione. A me piace, tipo Smoke on the Water. Di Purple. Ma devo tirar fuori... ma dobbiamo studiare una cosa, Agostino. Molti anni fa, loro sono giovani, tu sei giovane lo stesso, però non giovanissimo. Beh, insomma, non proprio... La Chiara è molto più giovane di noi, che sì, qui certo, vicino, sì. Che adesso farà le fotografie. Caterina Caselli, mia cara Eridana, sì. Suonava il basso. Quindi era trasgressiva già musicalmente all'epoca. Quindi suonando il basso, una ragazza che suona il basso, una band che suona... Non ci sono molte ragazze all'epoca che suonavano purtroppo, in una band. No... Cioè, ma anche adesso... Anche adesso, però sì. Adesso ci sono state delle aperture, sì, dal, sì, punto di vista musicale. Poi c'è, dopo parlerò, comunque, c'è una ragazza che americana, che lei si chiama Kaki King, e lei fa tutta una tecnica del tapping e dello slapping. Ah, capito. Che è tutta una tecnica, slap è una tecnica del basso. Certo, certo. Però veramente è straordinaria. Poi fa tutta percussioni sulla chitarra. Mm-hmm. Cioè, io... Quando l'ho vista sono rimasta lì così a bocca aperta. Quindi c'è, cioè, questa apertura, è giusto che ci sia l'apertura. Sì, è una ricerca. Ricordo che la batterista dei Velvet era una ragazza. Sì. E quindi insomma... Sì, sì, ma ci sono. Ma anche la batterista di Lenny Kravitz. Esattamente. Spacca. Spacca duro. Spacca bene. Quindi hai avuto l'idea, giustamente, hai fatto le cover, d'accordo, però hai avuto l'idea di portare avanti un progetto tuo. Sì. È stato difficile, bisognava lentamente sviluppare l'idea, portarla avanti. Sì, quello lo sto facendo più che altro adesso. Forse prima era più rinchiuso nelle mie mura, poi grazie a... Anche a Michele ti ha dato una mano. Sì, a Michele, lui mi ha spronata, mi ha presa, mi ha detto: ma adesso, cioè, le tue canzoni vuoi fare qualcosa o le vuoi tenere qua in casa tua? L'unica esibizione che ho fatto... come cantautrice davanti a un vasto pubblico è stato nel 2004, che ho fatto di spalla, ho avuto la fortuna di far di spalla a Francesco Baccini. E com'è stata quell'esperienza? È stata bellissima, poi chitarra e voce anche lì, e veramente è stato, cioè, per me avevo il cuore in fibrillazione. Ero lì che sembravo una vibrazione unica. Però è stato bello, poi ho conosciuto lui, è veramente una bella persona, simpatico, e niente. Tutto ti serve per fare l'esperienza. Sì, insomma. Sì, sì. Poi, a parte che quando cantavo non vedevo niente, per fortuna, perché c'avevo i riflettori in faccia, avevo un caldo. Ma penso che sia un comune per tutti. Sì, appunto. Sono scesa dal palco che non vedevo più niente. A parte che avevi anche l'emozione che ti teneva, sì, su, quindi insomma. Va bene, vogliamo fare subito sentire qualcosa dal tuo disco? Sì, voglio far sentire come prima canzone Di Nuovo Nel Sole, che è il singolo. Che è quella uscito, che dà il titolo all'album. Che appunto è uscito anche in un giorno speciale, è uscito all'equinozio d'autunno sì. Che è il momento in cui la Terra riceve più luce. No, l'equinozio è quando appunto il giorno e la notte sono uguali, di pari durata, però oltre all'equinozio c'era anche il plenilunio, e quindi è un po' legato al sole, certo. Tutto questo movimento solare. Di Nuovo Nel Sole, sì. Eridana. Voglia di sognare, ho rubato il soffio al vento per non smettere di respirare, di respirare. Ho sepolto questo male perché ho ancora voglia di amare, anche senza di te. Senza di te. Ed ho sepolto le mie paure, perché ora voglio coltivare il mio coraggio per andare avanti. Voglio volare via ancora. spegnermi nel mio passato. Ho rubato i soffi al vento per non smettere di respirare, di respirare. Questo cuore ora ha imparato a nutrirsi di semplicità. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Vi ricordo che potete vedere Reidana tramite le webcam nostre collegandovi nella recensione del nostro sito dell'artista qui presente. Verso la fine della recensione c'è scritto appunto diretta video, cliccando lì potete collegarvi direttamente, oppure scrivendo nel vostro motore di ricerca diretta Rock Wave, tutto attaccato, quindi potete vedere Reidana. Per chi invece volesse solamente sentirla in streaming audio, vi ricordo il nostro streaming sempre collegandovi nel sito della nostra emittente, cioè bluradioveneto.it. c'è un rettangolo rosa con scritto streaming, sotto c'è l'ormai famosissima freccia nera sulla sinistra, cliccando lì sentirete la nostra emittente 24 ore su 24 e quindi in questo momento potete ascoltare la voce e le parole di questa artista svizzera che ci è venuta a farci compagnia, a trovarci in questa serata di luglio. E cosa vi devo dire? Che lei ci sta presentando un disco che è molto bello, a me è piaciuto molto Reidana. Grazie, prego. Grazie. E mi ha fatto piacere che hai aderito. La dedica. Sì, sì, la dedica, ti ringrazio. Infatti è la prima volta che mi capita, sai. Ah, ecco, vedi. Sì, sì, sì. Ti col ringrazio. Cuoricino. Certo. E parliamo di questo è un pezzo del singolo che hai fatto sentire, hai fatto ascoltare, un pezzo sì. Ritmato, veloce. Sì. Però mi dicevi una cosa giusta, cioè la produzione di Max Ellie, che è l'ex chitarrista di Neck, sì. Che c'è un personaggio di un certo rilievo, che è stato conosciuto grazie a Ethan Genini della Black Ace. Della Black Ace, esattamente. L'etichetta di Luga. Che ringraziamo e salutiamo. Esatto. Ciao Max, ciao Ethan. E lui ti ha dato un'impostazione, chiaramente. Tu avevi impostato i pezzi in una certa maniera, poi leggermente, è giusto, sì. È normale che sia così. E t'ha un po', come si dice, velocizzato questo sì. Pezzo qua. Sì, ma un po'... Trovo che ci stava. Però appunto io le mie canzoni all'inizio le metto giù chitarra e voce. Certo, poi, prettamente acustiche praticamente. Sì, dopo me le arrangio un po' io alla mia maniera, così in casa. In casa. Però veramente, cioè Max ha fatto, trovo che ha fatto veramente un bellissimo lavoro. Beh, è giusto, e che il produttore deve dare i consigli, sì. Deve cercare di limare certe cose. Cioè mi ha proprio colto, ha saputo proprio... capirmi, cioè, e non è facile, no. Cioè, sono tanti magari che ti dicono ah devi cambiare qua, devi cambiare là, invece Max comunque cioè, è stato una mano a crescere lo, praticamente sì, sì. Mi ha aiutato tanto, sì. Bene, una cosa decisamente positiva, sì. Poi cioè il significato di questo pezzo forse va un po' in contrasto al fatto del rockeggiante, Michele parlava del sole, sì, cioè Di nuovo nel sole per me è stato riscoprire, ma è tuttora riscoprire, cioè scoprire, sapere che c'è, la nostra luce che abbiamo dentro di noi, che è l'anima. E l'anima è un po' come il sole, cioè ci sono certi momenti che viene coperto dalle nuvole e invece altri che è splendente. E quello che ci tengo a ricordare alle persone di, cioè di ricordare questa cosa, di non coprirla con tutti questi veli del, cioè, che la società comunque ti mette sopra, ti impone, cioè, insomma. Sì. E noi dobbiamo veramente spogliarci di tutti questi veli, l'odio, la gelosia, tutte queste cose, per, appunto, per mostrare questa luce che abbiamo dentro, cioè quell'energia che sì. tutti abbiamo dentro, sì. praticamente sì. basta tirarla fuori, sì. la nostra unicità, esatto. la nostra unicità, questo sì. è chiaro. Bene, adesso io però voglio sentirti dal vivo. Allora, cosa ci regali adesso? Ho pensato di, appunto, come prima canzone, di fare Cuore di Loto. Che è il singolo che avevo pensato io, forse. Sì, e che anche questo brano qua ha un significato molto profondo per me. Non è la canzone che parla d'amore, ma cioè è la canzone che parla d'amore, ma non più per una persona, ma non solo per una persona, ma per la vita. Qua è vita intesa come crescita anche nostra interna a livello spirituale, e un po' tutto così. È una canzone che ti piace tanto, te l'ha come ho capito. Sì, io l'adoro. Sì, sì. Anche prima, mentre la provavi, si capiva veramente. Sì, io proprio parto in un'altra dimensione. quando la vabbè, ascoltiamo questa dimensione. Va bene. Blu Radio Veneto, come non l'hai mai sentito. Oh, Fino all'ultima goccia, Maurizio, hai sentito? Sì, con col delay, cioè con quel praticamente con sì. Con l'effetto ecco. Con l'eco, sì. Ecco. Bravissima Ridana. Allora, vi ricordo i nostri numeri telefonici, il 346 23 20 033, se volete mandare SMS per anche per fare qualche domanda a questa artista, oppure 049 875 6423 se ci volete raggiungere in studio. Dunque, qua nella recensione abbiamo scritto questo, Eridana, una ballata sì. Pop con un certo brio, con qualche input, io qualche input, non nel senso negativo, nel senso positivo, mi riferisco ad Elisa. Sì. C'è qualcosina qua, non qualcosina no, di Elisa, non qualcosina tua e basta. Sì, c'è un però piccolo io... riferimento. Non è che c'è un riferimento, lei proprio, penso... Ah, fa parte del tuo DNA? Sì. Nel senso musicale, chiaramente. Sì, perché comunque mi ha accompagnato nell'adolescenza, cioè già quando... appunto quando ha fatto nel 2006 l'ho sentita... Diceva Michele, sei andato a vedere il concerto? Sì, però appunto nel 2006 quando lei faceva di spalla a Eros Ramazzotti... Ah, Eros Ramazzotti, sì. È venuta a suonare al Kingdom Festival a Belinzone. Quindi sei andata sicuramente. E io ho avuto proprio anche lì, cioè grazie a una nostra amica in comune che era andata in America, aveva importato questo CD di Elisa, che non era famosa in Italia. E io, cioè, la conoscevo già, sapevo tutte le sue canzoni, e lei penso che ci è rimasta un po', non so, stupita. Forse magari ci è rimasta, perché in pratica io e una mia amica eravamo in giro in motorino, io quella sera volevo andare a sentirla, so che mia mamma non m'aveva lasciato. Non aveva potuto prendermi i biglietti. E niente, stavamo passando via dall'hotel dove di solito stanno lì e lei mi ha visto. Cioè, siamo passati via in motorino sulle strisce pedonali, capite? E io ho urlato, l'ho guardato e facevo urlato, Elisa! E lei mi ha guardato e mi ha sorriso. E in quel momento io volevo fermarmi. So che mia amica mi fa, dobbiamo andare che c'è dietro la polizia. Che c'è proprio, in quel momento è arrivata la polizia. Però penso che, a parte quello comunque... cioè la sento molto come se parliamo la stessa lingua. Ho capito. Sì. Chiaro. Poi mi piace molto perché è anche polistrumentista, cioè sì. Lei non è solo una cantante, ma appunto sì. suona, scrive. Cioè c'è una band, quindi una che ci dà da è fare. Musicista, è musicista, cantante, sì, esattamente. Sì. Come hai cercato di partecipare alle selezioni dell'Eurofestival? Ah, ma boh, m'era... Ti era venuto in mente così? È stata un'idea sua, ma anche... cioè, erano tutte cose che non erano programmate. È stata un po' una cosa... Anche Sanremo, che appunto abbiamo portato Diana perché è uscita molto con gli archi. Diana un singolo, ecco. Sì, sì, singolo, poi l'ascoltiamo. Poi sì, lo sentiamo. Che poi voglio anche dire che è scaricabile a gratis. Ah, vabbè, poi ne parliamo. Ecco. Okay. E niente, lui mi fa, guarda, c'è il festival, possiamo magari andare a iscriverci così anche per fare un'esperienza, per appunto sempre per arricchirmi. Certo. E anche per crescere. Sì, e poi anche per promuovere anche un po' l'album, cioè è bello anche magari nelle interviste parlare, dire ah sì, sto anche facendo, cioè di darti da fare, non fare l'album e poi startene in casa. E non serve allora l'album. Appunto. dopo boom, anche l'Eurosong, abbiamo pensato di far andare lei e niente. Bene. E poi invece non è andata lei? No. Però si è sempre tentato, dai. Sì, ma... Ci saranno altre possibilità, sì. Altre opportunità. No, ma... La carriera tua... È giusto provarci. Sì, è appena cominciata la carriera tua da solista, sì. Quindi abbiamo tempo. Sei giovanissima, quindi i problemi ci sono. Io sono curioso, Ridana, com'è la situazione musicale, cioè a livello proprio sound, diciamo, lì in Svizzera? Ma in Svizzera ci sono tante... Cosa che va di moda? Va di moda il blues, il rock... Anche Lady Gaga, sì. Sì, anche. Purtroppo anche Lady Gaga. Sì. Anche purtroppo Lady Gaga. Poker face. So che adesso avrò tutti quanti gli fan di Lady Gaga che mi salteranno addosso. La musica è soggettiva. Sì, cioè. Sono d'accordo. Anche Lady Gaga è soggettiva. Certo. Cioè, è molto brava. Almeno suona. Sì, lei è brava. È un'altra Madonna fatta bene musicalmente. Brava, è intelligente, sì. Per quello. Cioè, sì, è costruita, ma non tantissimo. Sì, però rispetto a tante altre. Sì, esattamente. Sì, quindi c'è anche Lady Gaga, purtroppo. Sì. E poi cosa c'è in Svizzera oltre a Lady Gaga? Ma appunto c'è tanto il blues e poi quindi però sì. Però poi tipo in Svizzera interna ci sono molte band che fanno musica propria, loro. Sì. fanno in inglese soprattutto. Sì, sì, quindi, quasi tutti in inglese, è vero. Quindi mai in tedesco, quasi mai. Cioè, se guardi il portale MX3, che è un portale dedicato alla musica svizzera, cioè, la maggior parte sono, a parte il Ticino, sono in inglese. Quindi... Cioè, pure essendo svizzeri, però c'è tutto spazio. La Svizzera dà molto spazio agli emergenti, questo è molto, molto mi diceva bello. Michele a microfono spento prima, quando, prima di cominciare il programma, ci sono molti festival in Svizzera. Sì, Michele. Sì. Cioè, sì, un concentrato. Ne abbiamo un concentrato, soprattutto il periodo estivo, ne abbiamo moltissimo anche nella nostra regione in Ticino. Veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Insomma, bene. Ticino è piccolo, quindi sono 330.000 persone, sì, dicevi, quindi insomma, sì, sì, è una Padova un po' più allargata. Ma al di là dei festival, ci sono i locali che vi permettono di farvi conoscere, o è sempre il solito discorso che se quello fai un po' meno, se vai meno con le cover ti aprono le porte, se vai, sì, con la tua musica, sì, le porte sono chiuse. Quello è sempre un po' quello, è comune dappertutto. Il difetto, e se vuoi la... Certo, sì, immagino. Beh, insomma, quello è un problema che c'è. Alterni tra le cover, e magari fai 2 o 3 cover così, o certo, cioè, cerchi di metterceli dentro. Hai in vista qualche concerto tuo prossimamente? Sì, ho visto un concerto su nella Valle di Blegno, la Valle del Sole, si chiama, che è quello che volevo anche dire dopo. E niente, boom, è un concertino unplugged, quindi... Ma intanto si inizia così, sì, insomma. Sì, perché appunto per i live per ora siamo solo in 3, quindi ho pensato di, essendo che non possiamo fare proprio fedele al disco, ho pensato di farlo un po' unplugged in quello stile lì. E allora, chitarra sono io, voce, basso Max... Marco Campisi, che saluto, e anche Lorenzo Milani, che saluto alla batteria. Bene, quindi un trio praticamente. Sì, un trio, sì. Michele, cosa dici? Un trio praticamente. Un trio, molto bravi, motivati, credono in lei, anche se loro, sì, suonano in altre band che hanno un genere un po' più... un po' diverso. Un po' roccheggiante. Però molto bravi e siamo, sì, veramente contenti. Bene, bene, ottimo. Abbiamo parlato di lei? La vogliamo ascoltare? Esatto, sentiamola, dai. Va bene? Sì. Questa canzone da cosa, come nasce? Lei? Sì. Lei è una canzone che parla di una persona che sta vivendo e che purtroppo ha avuto la debolezza di lasciarsi andare a una dipendenza, cioè alla droga. E niente, sono... non voglio dire... Dice tutta la canzone. Sono delle riflessioni. Ok, l'ascoltiamo. Okay. L'ascoltiamo. Grazie. Porta la percezione e la sensazione di vivere. Jenny. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21:33 di questo giovedì 14 luglio, questa è sempre la vostra emittente preferita in questo momento, cioè Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino Spolore, che con Maurizio Calzavara stiamo ospitando con molto piacere una cantante svizzera che porta il nome di Reidana. Come mai questo nome, Reidana? Allora, questo nome qua per me rappresenta sia la mia personalità che la mia anima. Ok. Questo inteso come... Allora, Rei è la parte, è una parte del cognome del mio vero padre, e Dana invece è la parte del mio nome. A entrambi ho tolto una lettera. E questo rappresenta la mia personalità. Invece Ray in inglese sta a significare raggio, la pronuncia. Esatto, la pronuncia. E invece Dana sta a significare in sanscrito, che è una lingua molto antica, generosità e amore incondizionato. Quindi Reidana per me significa un raggio d'amore incondizionato. Ah, perfetto. Verso noi. Certo. Lei è dolcissima, perché tu, io ti ho sempre visto conosciuta in questa veste dolcissima, come ti dicevo prima. Sì. Poi invece vai a ascoltare la parte musicale, c'è un'anima rock. Sì, ho una parte così, ma anche appunto sono anche molto dolce. Sì, certo. Anche se ci confermo. Si può trovare, immagino. Cioè, sembro una dura, ma sotto. E a proposito di questo pezzo che abbiamo sentito lei, sì. Cioè, a proposito di un po' più sostenuto, c'è un potenziale, che secondo me è un altro singolo potenziale questo pezzo, sì, qua. Sì. E poi c'è un sottile gioco dell'elettrica. Chi l'ha fatta l'elettrica nel disco? Maxelli. Sì. Cioè l'idea sua è stata praticamente. Sì, certo. È per niente, ecco, ma in tutto l'arrangiamento comunque è tutto suo. Sì. Cioè, lui ha i diritti su quello, ah, d'autore. Ha sviluppato il pezzo tuo iniziale e poi l'ha sviluppato in una certa maniera. Sì. Cioè, lui è riuscito a dare la giusta veste. Sì, giusto. Sì, perché l'arrangiamento è... Il produttore ha quella funzione. Sì. No, ma un gran professionista. Praticamente lui in pochissime ore, 5-6 ore, arrangiava un brano. Ah. Cioè, suonava, capiva lui. Subito, immediatamente. Sì, sì. Bravissimo, veramente. L'andamento. Io andavo lì con la mia chitarrina, così. Boh, gli avevo fatto sentire anche le mie demo, certo. Quello che faccio io in casa, così... Però appunto io andavo lì con la mia chitarra e lui mi ascoltava così un attimo, poi anche 4 ore. Il primo approccio che hai avuto con Max, come è stato musicalmente? È stato, dovevamo solo provare a vedere se c'era feeling così, invece da lì è nata Al di là di te. Ah, immediatamente. Immediatamente. Sì. Cioè lui ha capito subito. Suona qualcosa. E poi appunto la cosa interessante anche... che dopo quell'incontro lì mi ha spronato, perché lui mi ha detto: guarda, le altre le metterei un po' da parte perché sono ancora un po' confusionali, ci sono anche altre canzoni. E allora lì io ho detto: allora questo qua deve essere l'input per creare nuove canzoni. Cioè ti ha dato la via da seguire praticamente. Sì, mi ha detto di essere un po' più forse lineare, ho capito. Cioè di far capire un po' meglio determinate cose, cioè anche a livello di testo, così, di essere un po' più magari... E da lì è nato Cuore di Loto, è nata Diana, è nata Ragazza Sola, e, cioè in pochi mesi. E una cosa voglio chiederti, quanti musicisti oltre a Max ci sono nel disco? Solo lui. Ha fatto tutto lui. Sì. Ho capito. Il basso, la batteria sono digitali. Sì. Cioè... sarebbe stato bello se... Purtroppo costa. I costi viene sono a costare quelli. Tanto. Questi sono i costi, chiaramente. E niente, veramente. Poi c'è Dita che suona la chitarra e Max che veramente... E lui ha saputo veramente cogliere quello che sono veramente io. Cioè, io se mi ascolto comunque dico: cavoli, questa qua sono io. Cioè, non è che magari può capitare che uno non ti rispetta come te, come persona. Sì, ho capito. Cioè, lui è riuscito veramente a tirar fuori il meglio. Meglio di me, sì. Certo, certo. Hai saputo entrare dentro di te, insomma, dentro la tua anima musicale, insomma. Sì. Anche se in certi brani è stata dura, perché come diceva Reidana, lei i suoi brani li arrangia già in casa, no? Sì. Ah, cioè li avevi già costruiti te praticamente in una certa, sì, maniera. Esatto, quindi lei si era già abituata con un certo arrangiamento. Mm. Chiaramente dopo Max alcuni brani li ha un po' stravolti. Mm. Li ha boccambiati. Esattamente, quindi, però quindi è stato brani, bello. Tipo Autunno, lei all'inizio è stata un po' scioccata. Sì. No, non mi va così, però alla fine adesso è la canzone che preferisce. Sì, quindi, ecco, cioè, dovevi avere mentalmente l'idea che doveva essere cambiata in questa maniera. Sì, è vero. Beh, io avevo cioè, l'ossessione, cioè non l'ossessione, ero convinta che doveva essere fatta con i violini e questo, quello, quell'altro. Invece lui. Invece con la chitarra così bella, distorta, dà proprio il senso dei rami, delle foglie secche. Quindi autunno. So. Sì. Vedi, aveva lui l'idea giusta, sì. L'idea giusta anche era la tua, ma tu la vedevi da musicista, cioè sì, da autrice, è quello è importante. Che poi penso che arrangiare è come dipingere, cioè i suoni sono importantissimi, sono come dei colori, cioè hanno la loro tonalità e tutto. E quindi, cioè, è importante dare un timbro alla canzone, non mettere sempre i soliti, cioè di dargli una caratteristica, cioè, qui, e dipende anche tanto dall'arrangiamento del suono. Sì, perché il produttore, parlando dei Beatles, il quinto elemento era George Martin, i quattro mostri c'erano, i due mostri, Lennon e McCartney facevano i pezzi, ma George Martin aveva quel compito di elaborare le idee di Lennon e McCartney e porle in una certa maniera. Sì. Il quinto Beatles, poi c'erano il quinto Rolling Stone, cioè i Rolling Stone, cioè, c'era sempre un produttore, sì, che cercava di dipanare le diverse sequenze. Sì. Tuo produttore ha quel compito, il produttore, certo, deve avere quel compito là. Non vede le cose da maniera staccata. Levare la libertà all'artista, quello no. Però di coinvolgere l'artista, sì, in una certa maniera. Però bisogna aggiungere anche dei compromessi. Cioè, in che senso, Michele? Nel senso appunto che lei magari doveva rinunciare a un certo tipo di arrangiamento e magari Max Ely adeguarsi un attimino anche a quello che sono le sue. Sì, questo è vero. Quindi ogni tanto pensavo, la mia funzione era fare un po' da mediatore ogni tanto. Sì, esattamente. Equilibravi il discorso. Esattamente. Beh, tu sei il manager, mi pare giusto che è quella funzione. Sì, lui fa l'arbitro, no? Mi mette a pacchetta a me e mi dice stai zitta. Ma non è mica una funzione, cioè, adesso si scherza, ma è una funzione importante quella di equilibrare due idee che... Sì, cioè, ma io non è che, cioè, l'unica cosa era appunto stata in autunno, nelle altre ero tutta, cioè, contentissima. Eri contenta dell'arrangiamento di Max. Ma anche in autunno, adesso io l'adoro veramente, vedi, la canzone più bella, che a parte anche Cuore di Lotto, però... È veramente la più riuscita, tantissimo, okay, tantissimo veramente. Come nascono le tue canzoni, cioè a livello del testo, cioè cosa sono le esperienze di vita, cioè ti alzi, vai a fare la spesa, che ne so, sì, come è successo, sono e ti cose mie che ho passato in prima persona, quindi e niente, nascono, io non mi definisco tanto una che piace scrivere, cioè io quando scrivo una canzone è perché è un momento particolare, perché mi lascio proprio andare e mi vengono così le parole. Per me è molto importante anche le giuste parole e anche magari semplici, perché non mi piace troppo stare lì a cercare chissà che... Mi piace la semplicità, mi piace... Che rispecchia la tua persona. Sì, però, che arriva, cioè, a tutti, non solo le persone magari colte o così. Mi piace proprio essere universale. Quindi è tutto tuo, intimo, questo, sì, discorso. E poi nascono quando sono in casa da sola, magari in un momento triste. Cioè, purtroppo non sono ancora riuscita a scrivere in momenti gioiosi. Ma è più facile, sai, scrivere quando si è tristi, no? Sì. Perché si cerca sempre l'aspetto gioioso, sì, invece per derivare proprio dalla situazione che si è, invece... Sì. E quindi viene spontaneo, di getto, esatto. Però poi appunto, come se entro in trance. Cioè dopo guardo, cioè vedo tutto un foglio pacciugato su, che poi non si capisce niente, devo star lì a tradurlo, e niente. Cioè mi devo anche registrare, perché sennò tante volte sparo, certo, così. Dimentichi quindi... poi le cose, sì, che hai fatto. Beh, ci sono artisti che sono passati in questi studi che hanno detto che addirittura registravano col telefonino, sì, perché sennò come dice Vasco... Una canzone, se non la scrivi subito, poi si dimentica. Certo, sì, questo è vero, è una cosa giusta. Sì. E l'anima rock esce sempre. Vasco, cantante che piace tanto anche a mia mamma. Sono cresciuta anche con quello. Ah, ecco. Pink Floyd, Vasco, Rolling Stone, così. Eh beh. Io so che tu fai parte anche di un'altra band. Sì, Haploid. Haploid. H-A-P-L-O-I-D. Chi sono questi Haploid? Cosa fate? Cosa allora, proponete? Noi facciamo, musica nostra. Ci ascoltiamo qualcosa. Li saluto, ciao Tom, ciao Chris. E siamo in tre per ora. Uh-huh. Purtroppo eravamo in quattro, ma una persona è venuta a mancare. Uh-huh. E fate? E facciamo un genere molto... tipo un pop alternativo, tipo stile, siamo molto influenzati da Pink Floyd, Radiohead, Blackfield, non so se conoscete. No, io no. Porcupine Tree. Sì, beh, quelli sì conosco. Ecco. Porcupine Tree. Come mai Porcupine Tree? Un altro gruppo tosto. Porcupine Tree. A me piacciono. Non significa che se io faccio musica così. Sì, sì, ma io sono contento. Sono andata a sentirli a Milano. Bene, sono bravi loro, Io sono contento che tu ami i Porcupine Tree, non è mica una cosa semplice. Non sono tantissimi artisti che sono venuti qua e mi dicono i Porcupine Tree. Poi anche i Radiohead mi piacciono. Beh, Radiohead sono conosciutissimi, però... Porcupine Tree sono meno conosciuti di Radiohead e dei Coldplay, questo è chiaro. E niente, vi faccio ascoltare Father. Da questo disco che si chiama? Stone, è in titolo Stone. E il gruppo è? Haploid. Father Death, you're now alone. You left this empty home, without love, without dream. There's no soul to hear you scream, not an angel, not a ghost. Father Dead, your eyes are closed. Father, I don't wanna fight, cause the legions do not bite. A father, a preacher of the lights, got no eternal life. Father Death, say farewell. Avoid the heavens, enjoy the hell. Soul in pain is in the new. You're lost in limbo in solitude. Your body's cold, the world is gone. Father, Dad, you're far from home. Father, I don't wanna fight, cause the legions do not bite. Father, a preacher of the lights, gotta know. Father, I don't wanna fight, cause the legions do not bite. Father, the preacher of the night, got an eternal Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, io confesso la mia ignoranza, perché non vi avevo mai sentiti, sinceramente. Adesso ci hai sentiti. Però sono rimasto stupito, perché la canzone mi è piaciuta tantissimo. È bella. Veramente molto molto bella. Complimenti. Grazie. A voi tutti e anche al resto della band. Ti ringraziano loro. Perché questa veramente mi è piaciuta moltissimo. Stavamo parlando adesso con Chiara e anche a lei, e veramente è piaciuta tantissimo questa canzone. Si parlavo con Ray Dana e anche con Michele adesso, cioè ricordava molto, a mio parere, io sono a una certa età, c'è poco da fare, ricordava molto i Spandau Ballet, visto che il cantante ama molto i Spandau Ballet. Lui ama molto, C'è questo indirizzo, questo modo di fare il pezzo che ricordava sì. molto il cantante loro. Ma è una cosa positiva, lui, mica cosa negativa. Gli piace molto, boom, dopo ha influenzato anche tanto lui, gli piacciono i Radiohead, mm-hmm. Pink Floyd, Coldplay, certo. Però appunto... Poi lui gli piace molto il jazz, anche però anche sono canzoni Tom, tutte vostre, che è pianista, cioè praticamente sì, inedite. Canzoni nostre, sì. Assolutamente, sì. Non c'è nessuna cover, no. Cioè, sono tutte inedite, pezzi sì. inediti della sì, band. Sì, nostre, sì. Perfetto. Ti devo svelare un segreto, posso? Dimmi. a Maurizio, è un segreto fra me e te, mm-hmm. Dana. Quando la contattai all'inizio, la prima volta, lei mi disse, io, sì sì, vengo a trovarvi da voi in radio, però fa, non vengo io da sola, vengo con il mio gruppo. E no, gli ho detto, io ti ho conosciuto. No, fa, vengo con il mio gruppo, gli Abloid. Ma no, dai, ti preferisco. Allora, per me sono come una famiglia, sono immagino, molto importanti. Immagino. Allora ti sarebbe una promessa. Dimmi. Ti riaspetto qui con loro. Certo, verremo. Che fate la musica vostra, insomma, cioè la musica degli Abloid, non la musica tua, e fate quello che... Certo. Che è nel disco, insomma. È una promessa. Ci stanno ascoltando, magari, sì. Sì, sì. Allora, prendete carta e penna, segnatevi Blu Radio Veneto, Padova, e venite a trovarci. E poi volevo dire l'indirizzo del nostro sito, che è www.haploidacapieloidi.ch. Qua si trova il disco di Abloid, ma c'è si anche può il tuo scaricare disco. Su iTunes. Ma il tuo disco invece si trova dove? www.reydana, reydana.com. E fisicamente come si può fare per averlo? Allora, noi purtroppo fisicamente facciamo siete solo in autoproduzione via... praticamente. Sì, solo nel canton di Cino si trovano quante copie che avevano... Cioè no, però puoi scaricarlo da YouTube. Ah, ok, ho capito. Sì. E da YouTube, da iTunes. Se qualcuno vuole può entrare sul sito, sì, e ordinarlo. Ah, okay. Ordinarlo, noi sì, lo spediamo per posto. Bene, bene. Anche con il mio gruppo, sì. Ah, ok. È proprio una... cioè, sì, le spediamo noi. Mi pare giusto che sia così, beh... Si cerca di far così, questo sì, è il sistema. Certo, poi certo. Quando ci saranno i concerti lo troveranno anche sì, in sì, concerti. Sì, sì, infatti avevamo fatto un concerto e li abbiamo venduti un paio. Vabbè, ne avete venduti. Devo dire che era un concerto un po' tra di noi, perché ecco, era il primo concerto. Ah, e poi volevo fare anche una premessa, che la batteria, perché in questa canzone qua, quando abbiamo fatto l'album, c'era una batterista, una ragazza, sì, dopo è andata via, però appunto voglio anche salutare lei, Patrizia. Ciao Patrizia. E niente, bene bene, ci tenevo a dirlo che è una donna anche lei, certo. Come no. Allora, Blu Radio Veneto con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara e con Reydana, e con accompagnata dal suo manager Michele Fiscalini, qui in queste ancora restanti... queste lande padovane, queste lande padovane. Dove l'hai fatta questa foto sull'acqua? Ah, sì, arriva al lago, a Tenero. Sì. Lago di Locarno, il lago maggiore. Ah, sì. Che bella questa foto, hai visto? È bella, molto bella, sì. la mostriamo per via, la mostriamo per via quelle camere. Il fotografo è Michele. Sì. È lui, bravissimo, sì, dilettante. Sì. Ecco. È stato veramente bravo. Chiara, adesso mostriamo, ecco, la fotografia che Michele ha fatto. Allora, no, spostati più in qua, Maurizio. Mi metto qua, lì, così. Dai, forse metti come Michele. A Michele. La prendo io. Eccola qua, eccola là, perfetta, così va bene. Si vede benissimo la foto di Reydana a pelo d'acqua, insomma. Ma stai a nuotando o sei ferma? No, stavo ferma e stavo... avevo anche freddo. Poi è freddo l'acqua. E l'avevamo fatto alle 6 del mattino per cogliere la luce bella, sì. È freddo, quindi puoi capire. Ma è freddo, faceva freddo. Ma è freddo in ogni caso, sempre il lago, presumo, no? Grazie. Oddio. Si fa tutto per la musica, per fortuna che non sono come un uomo che si rimpiccioliscono. Perché sennò mi uscivo dall'acqua così. Va bene, ci ascoltiamo qualcosa di tuo, ci fai qualcosa dal vivo adesso, però sì, ci dobbiamo sentire qualcosa che ci vuoi fare tu, cosa ci fai? Voglio farvi ascoltare Autunno, dato che ne abbiamo parlato prima. Ampiamente, sì, giusto. Sì. Ed è una canzone che parla di un momento di disperazione di una persona e che purtroppo in quel momento non vedeva più via d'uscita e un senso, non dava più senso alla vita, e quindi vedeva in ogni cosa la fine. E però, cioè, quello che voglio far capire nella canzone è che non c'è mai una fine, cioè niente muore se poi rinasce, quindi è un po' tutta, l'autunno è un po' una metafora del sia della morte ma anche della continuità, cioè Dottor Jack e Mr. Hyde, insomma, sì, un po' così. Autunno. Blu Radio Sera. Sei proprio dentro la canzone, quando la canti, sei proprio entri dentro la canzone. Sì. Si vedeva proprio da come chiudevi gli occhi e cantavi con intensità. Che bello vederti così comunque. Grazie. Hai ben due fotografi adesso, ben due fotografi. Senti, guarda che tra un po' mi... tra un po' divento come la penna lì. Ma tutto dal vivo, ragazzi, 21:56, tutti dal vivo, cosa bella così, tutto live, è fresca, è fresca, naturale, senza tanti giri. Questa ed è anche più sciolta, più serena, sì. Adesso. Sì, sì, adesso una... mi sento già meglio. Vedi, te l'avevo detto. C'è Michi che fa le foto. Alla foto... Fa le foto alla fotografa. Grande. Autofotografia. Sì, eh. Allora, Ray dobbiamo Dana. Prendere tutto di questo momento. Hai dato molto vigore, molta potenza. Cioè, chiaramente il microfono dà l'effetto di lei, sì. Cioè la voce viene un po' piace, allargata, ti piace, sì. questi effetti. Sì. Però la grinta c'era, la chitarra. Sì, sì. È una chitarra acustica, teniamo conto che è una chitarra acustica. Però 400 franchi. questo è il prezzo. Però è una Yamaha. Mica abbiamo detto una marca da poco. No, il mio sogno è arrivare un giorno e comprarmi una Martins. Ah, una Martins, quella che suonava... Che sì, suona Paul. John Mayer. Anche Paul ha suonato, sì. Qualche volta a Marti. Sì, beh, John Mayer si sa. John Mayer. Le chitarre di John Mayer sono le chitarre di John Mayer. Sì, c'è poco da sì. fare. Ma lui faceva blues. Ma tu fai blues qualche volta anche? Sì. E blues non ti fa mica. Ferme mica male fare un po' di blues anche nei dischi prossimi? Perché no? Che vuol dire? No, ma è meglio blues... non mischiare. No, il canto ora. Il canto. Cantautorato. Pardon, ma non giustamente è nella, Agostino mi ha... Non è nella mia indole. Ma non è vero, non è vero, assolutamente non è vero. La tua indole, sì, tu sei cantautrice, d'accordo, però qualche pezzo di blues non fa mica male a nessuno. 30 secondi, fai quello che ci hai non fatto fa mica prima. Male a nessuno. Dai, faccelo sentire, aspetta sentire. Che devo... allora, prima devo tirar via il delay. Sì. Che il blues fa mica male. Grazie. Fa bene alla salute, alla grande. Yeah. Tutto dal vivo, 21:59. Il blues svizzero, ma è sempre un blues. Sì. Certo. Che bravo. Devo dire grazie a Alberto Tomasetic, che è stato un mio, cioè, è stato un mio istruttore, tra virgolette, perché quando suonavo nella cover band lì di Elvis Presley, è lui che mi ha insegnato. Elvis ha molto del blues. Anche tipo Johnny B. Goode. Ottima, ottima cosa. Sì, benissimo. Sì. 22 esatte, proprio in questo momento il blues ha scoppiato alle 22. Allora, Ridana, sì. Cosa mi racconti di bello? Sono felice. Ti si vede. Senti, se tu andresti per caso ipoteticamente in un'isola, noi è un giochino che facciamo spessissimo questo, perché sì. È solo perché per l'anima, insomma, dell'artista. Uh-huh. Se tu vai in un'isola deserta, cosa ti porti di musica? La mia chitarra. E poi? Qualche canzone, qualche disco. Qualche disco. Due dischi, ti do. Due dischi. Elisa. Solo Elisa. Era difficile. Solo Elisa. Tutta la discografia di Elisa. Sì, cavoli. Scofanetto, dovrebbe inventarlo. No, no, esiste. Proprio il cofanettone. I sei dischi di Elisa sono in cofanetto, sì. Devo comprarlo. Sai perché? Boh, io ce li ho già tutti, però. Beh, tu ho anche i libri, tutto. Tutte le raccolte. No, l'hanno riproposto in edicola qualche anno fa, l'anno scorso, mi pare. Tutti i sei dischi di... Wow. Non l'ultimo no, chiaramente. L'ultimo no. Però i primi sei sì. L'altro disco, oltre tutti i dischi, tutta la discografia, sì, di Elisa, sì. Dopo, l'altra essenza musicale, qual bello, è? Bello. Ma... non so, ma io ascolto di tutto. Ma così, se vuoi dire un nome... Kaki King. E chi è Kaki King? È una musicista, suona la chitarra. Questa non la conosco, mi hai forato praticamente. Devi guardarla perché ha fatto la colonna sonora di August Rush. Ah, il film. Ho capito. E lei fa tutto tipo così. Ah, ho capito. Queste cose qua, così, che io voglio imparare. Assolutamente. No. Non la conosco, beh, bene, positivo. Però veramente così, è una cosa che devo appurare. Michele, tocca a te adesso. Anche tu, sì, devi scegliere anche te due. ma tanto Elisa è in sottofondo. Ah, dai che mi sciolgo. Oddio, che... Se la vedo gli salto al collo. Sì. È solo una canzone questa. Noi adesso porterei Sting. Sì, Sting, ecco, abbiamo Sting, tra l'altro appena assistito a Locarno. Nel concerto con la, con la Sinfonico. Sì. Esattamente, Sting. Bravo. Veramente bravo. Ti piace? Lui. Sì, Sting molto. Con i Police o Sting da solo? No, Sting da solo. Sting da solo. Anche se non mi dispiacciono i Police. E poi come seconda scelta, Michele? Ma porterei Giorgia. Ah, Giorgia. Sì, mi piace anche il suo ultimo singolo. Bene. Sì. Ok. E adesso cosa ci fai ascoltare? Sempre dal vivo, se vogliamo sentire. Ah, ok, sì. Sempre dal vivo. Sì, sì, sei bravissimo. Sempre dal vivo. Il tempo scorre qua, abbiamo solo mezz'ora, dobbiamo sentire tutta la roba dal vivo. Allora, facciamo Agrodolce. Ah, bello, bello, Agrodolce. Che è una delle mie canzoni romantiche, d'amore. Okay. Sei pronta? Quando sei pronta dimmelo. È troppo. Yes. Radio Veneto. Parlami di te, di questa inquietudine, di queste sensazioni. Parlami di te, il sole spento sui tuoi occhi, un vento gelido nel tuo cuore. E perché resti lì confusa, perché strappi l'anima di questo sogno, ormai la mia ultima speranza, perché resti lì in silenzio. Insicurezza, ora basta, prendo e ti porto via. Un tuo bacio alla vaniglia mi basterà per vivere. Un tuo bacio alla vaniglia e che non so dimenticare, ma che voglio solo amare. Parlami di te, di questa inquietudine, di queste sensazioni incerte. Parlami di te, di questo male che ti rende così. Bella come sempre. Sì, molto bello. Il pezzo che noi abbiamo scelto, che per un mese è andato in onda, che andrà in onda ancora fino al mese, scade il mese. Grazie. È una ballata pop, molto romantica. Sì. E quella hai fatto con leggermente con più grinta, ma è giusto che sia così. E poi, secondo me, il pezzo, quello che vale è il ritornello, che è molto accattivante. Sì. Il ritornello ti prende immediatamente. Sì, l'abbiamo scelto anche per quello. Testa, il bacio alla vaniglia. Esatto, il bacio alla vaniglia. Un po', il bacio vaniglioso. Un po' battistiano, possiamo dire così. Un po' alla Mogol, ma va bene lo stesso. Sì. Che dire? che dire? Ti sei... ma a me piacciono queste, appunto, queste metafore un po' così. Beh, certo, mi sembra giusto. Mi piace dire il bacio dolce, io devo dire il bacio alla vaniglia. Ma come ti è venuto questo bacio alla vaniglia, così? No, c'è un motivo. Perché appunto c'era di mezzo lo gusto della vaniglia. Va bene. Va bene, adesso ti facciamo riposare un pochino. Grazie. Ci ascoltiamo qualcosa dal disco, sì, così allora, hai tempo per bere qualcosina anche se hai sete. Continuiamo a restare sulla vena romantica, facciamo Via da me. Ok, sempre dal disco? Sì. Che si chiama? Di nuovo nel sole. Lascio queste tue parole. Solo tu, e così nei miei silenzi la tua voce sentirò, e viva dentro me, e viva dentro me, che mi parla e non sta zitta, che mi soffia sulle labbra la sua dolcezza, che mi prende la mia mano, che ogni suo già Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, siamo sempre qua, 22:11, quasi 22:12, cioè abbiamo circa un quarto d'ora, ma un quarto d'ora nella musica rock può essere breve e lunghissimo, c'è sì, poco da fare. Sì, vero. Esattamente. Abbiamo sentito, adesso abbiamo deciso, assieme chiaramente Michele, la nostra protagonista, ed Agostino, di far sentire il singolo, quello è appena uscito. È quello appena uscito, sì. appunto ci tenevo a dire che comunque è anche gratuito, si può scaricare gratis sul mio sito. Intanto il titolo Diana, perfetto, con la è scritto D-H-Y-Ana, perfetto, e che in sanscrito vuol dire meditazione e visione. Bene. Quindi, e parla sempre, ha sempre la stessa tematica un po' come fiori di cuore di loto e no, sì, come cuori di loto, sì. Di amarsi, di ascoltare appunto la nostra parte interna, e che è importantissimo. L'arrangiamento è sempre di Max? Sì. Ok. Sentiamo? Parla dell'anima. Parla dell'anima. Sentiamo allora? Sì. Ok. Quante notti hai udito la sua voce vicino? Quante notti hai urlato fermati? Quante notti avevi il cuore in gola? Quante notti hai dubitato di te? E al mattino sentivi di lasciare sulla terra polverosi pensieri e lanciare nell'aria coriandoli d'amore. Radio Sera. Allora, un singolo questo nuovo, sì, che è uscito da poco. Sì, è il giorno, la festa della luce. La festa della luce. Farà parte del prossimo disco? Sì. Sì. Sì. Che quando pensi... Ma quello non lo so, però ho già fatto diverse canzoni. Ah, hai già pronto diverse canzoni. Sì, lui mi dice sempre... Ma concentrati sui live a posto di continuare a procreare. Sì, sì, io sforno fuori. Ma puoi anche utilizzare le prossime canzoni nei live stesso, sì, no? Sì, puoi, sì, provarle quello, là. Sì, quello mi piacerebbe. Appunto adesso anche mi sto... è da un anno che sono anche al piano, sto imparando anche lì da sola. e appunto c'è una canzone che è nuova, che ho appena fatto, che mi piacerebbe fare nei live. Nei live, perfetto, sì. Perfetto. E che si intitola? Non si può, non si può, si può dire è nuova, per quello si può dire. È una sorpresa, A proposito di live, abbiamo ancora qualche minutino, ci fai un'ultima canzone. Io so che tu, oltre a cantare in italiano, canti anche in inglese. Sì. Ci fai quella lì in inglese adesso? Ok, Heaven Stays. Sì. Okay. Che parla... Hai voglia di fare quella o hai scelto qualcos'altro tu? No, va bene quella. Va bene quella. Parla della speranza. Ok, parti pure. She's killing dreams, surrounded by her fears. She's walking night. She's walking in the night, trying to find a light. She's carrying a light inside. Bravissima, hai dato una grinta notevolissima. Io nel disco ho recensito il pezzo dicendo, facciamo un applauso, dicendo che il pezzo somigliava molto a Sheryl Crow nel disco. Sì. Qua l'hai cambiato totalmente. Sì. Perché la chitarra, il piano ha sostituito l'ho fatta, la chitarra. L'ho fatta come la faccio col mio gruppo adesso. Ecco, esattamente. Abbastanza grintosa, decisamente. Sì. Una voce un po' potente, molto potente. Sì, perché anche essendo essere in tre, quindi devi... Sì, devi dare più forza, devi tirare un po' più se c'è. Beh, abbiamo qualche minuto, ricordiamo le cose importanti, dove si può acquistare, dove si può trovare il disco, eccetera. Allora, il mio disco si può trovare sul mio sito www.reidana.com, Reidana, R-E-Y-Dana. Perfetto. E, si può trovare anche su iTunes, tutti Napster, i portali, tutti i portali, esattamente, sì. Amazon e su Facebook, e su Facebook, Facebook, quello è importantissimo. Tante mi piace, sto mi piace. E poi i prossimi concerti? Ma appunto, prossimi concerti ci sarà, spero, un concerto in agosto, metà agosto, su nella mia valle, la Valle del Sole. Bene. Quindi presenterai la tua produzione a Olivone, esattamente. Sì. E qualche forse il pezzo, i pezzi nuovi, forse sì, anche delle cover così, o anche pezzi nuovi, sì. Ok. Se potrò portarmi sul piano, sì. Bene, spero di sì, dai. Sì, speriamo. Allora, è arrivato il momento di salutarci. Termina qui la tua intervista. È stato bellissimo. È arrivato Alberto, quindi lasciamo il posto alla sua classifica e alla sua musica rock. Sì. E, Reidana, che dire? Noi ti ringraziamo di aver accettato l'invito, come grazie ti ripeto, di aver fatto così tanta strada dalla Svizzera per venire qui. Siamo stati onorati di averti per la prima volta in Italia, è un grande piacere. Grazie. Ti ho strappato la promessa di venire con il tuo gruppo. Certo, certo. E quindi ti aspettiamo prossimamente quando vorrai. Va bene. E ci lasci con che canzone adesso? Ma adesso vi lascio con una canzone di John Waite. No, non farò una cover di John Waite. Ah, l'ha cambiato anche. Sì, ha cambiato, sì. Immediatamente. Sì, ho cambiato all'ultimo momento. All'ultima goccia. E niente, Missing You l'ha rifatta anche Tina Turner. Sì, vero. A me piace molto, una delle mie canzoni. È un preferite. Grande pezzo, sì. E quindi ti salutiamo con questa canzone. Allora, io vi do l'appuntamento a giovedì della settimana prossima. Faremo una serata interamente dedicata alla musica folk. Sì, faremo una musica americana. Faremo una serata dedicata alle ragazze americane. Quindi Joan Baez, Joni Mitchell ed altre cosette molto interessanti. E anche qualche maschietto. E qualche maschietto. Un maschietto si chiama Bob Dylan, un maschietto di un certo tipo. Importantissimo. Quindi... Poi ci tenevo a salutare la mia sorellina, la mia mamma, il mio papà, tutti i miei amici. Bene. Beh, certo. Ma fai pure anche i nomi se vuoi. No, non voglio fare che dopo uno mi dice bene, salutata. Così no. Quindi appuntamento a giovedì alle ore 21 con Anna Tosato, una cantante padovana che ci regalerà la sua voce per cantare le canzoni, appunto, come dicevamo all'inizio, di John Baez, di Dylan, eccetera. Quindi l'appuntamento è per giovedì alle ore 21, sempre qui a Blu Radio Veneto. Agostino Esplorore vi dà un buon proseguimento ad ascolti i programmi con Alberto Prisco e una buona serata. Ciao Maurizio. Ciao Agostino e grazie a Reidana. Grazie e Michele a voi. Sono arrivati qua dalla Svizzera fino a Padova. Ciao Michele, ciao Reidana. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Every time I think of you, I always count my breath, and I'm still standing here, held 2 miles away, and I'm wondering why you left, and there's my heart that's breaking down this long, this night. I hear your name in circus echoes, and they always make me smile. I spend my time thinking about you, and it almost driving me wild. And there's my heart that's breaking down this long. standing here and you're miles away.